Si discuteva sui problemi dello Stato, stando a finire sull'hashish legalizzato, e casa mia sembrava quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano. E il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così. Everybody, che bello, due amici, una chitarra allo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di sì o cacchio non la contate, e che reputazione, dite un po', vi fate. La gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. E allora senti cosa fa, soddisfazione non ti do, divento femminista, mi vesto trasandato, e quando Ostia vado a culo nudo sto. Corrado Sannucci.